un'altra notte, un altro hotel, un'altra storia che tengo per me. La tengo per me. Cercare sempre quel che non c'è, ma l'essenziale è a 2 metri da me. È a 2 metri da me. Disteso sul letto, ripenso a me stesso e a quanto sono cambiato adesso. Io scrivo di questo, vivo per questo, perché solo questo mi dà adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina. Baby, mi fa sentire libero, respirare vivo. Adrenalina, adrenalina, adrenalina. Gli sguardi persi, le luci a LED, questa città così diversa da me, così lontana da me.